ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Radio F, questo è All Time Rock and Roll. All Time. Ah, non si era cambiato programma? No, come? Quanto? Veramente? Non si era deciso di cambiare. Ma no! Se faceva musica leggera oggi. Ah sì? Allora vado via. Prima c'era Romina Albano, veramente. Comunque, tanto per iniziare anche questa settimana non ci sono compleanni. Ecco. Niente da fare. Vabbè, è la terza puntata che non nasce nessuno. E già. Auguri ai Patruzzi. Grazie mille. Che canzone hai composto? Mandiamo una tua canzone. Beh, la metto alla fine. Il campanello. Il campanello. Sempre quello. Comunque, quindi niente, iniziamo subito con la storia del rock. E come vi ho promesso settimana scorsa, iniziamo e parliamo del 1902. Con tutta la storia del rock del 1900. Oh my god. No, sto scherzando. Quest'oggi parliamo del 1968. Niente, vai. Ragazzi, posso aprire una piccola parentesi? Dicela. Mi vorrei sfogare un attimo. Che è successo? Che è successo? Niente, perché tutti i lavori sono difficili. Rognosi, faticosi. Per l'amor di Dio. Ecco, è arrivato. Ma secondo me quelli al pubblico sono i più logoranti. Cioè, mi voglio proprio sfogare oggi, non ce la faccio più. Ieri è venuto uno a pranzo. Sì. Avete presente la mia sala? Cioè, è lunga, poi in fondo ci sono le vetrate. È rosina. Poi quando apri le vetrate c'è il parcheggio. Sì. Quello non è l'ingresso, è la porta di emergenza. Sì, che poi la usiamo per i fornitori. Porta secondaria. Sì, non è l'ingresso comunque. No. Allora, un altro giorno è entrato lì perché l'ha vista aperta. Comunque, vabbè, ci può stare. Poi era da solo. Ha parcheggiato la macchina dentro. Si è messo a sedere in un tavolo da quattro. Non ha nemmeno salutato. Non ha chiesto dove poteva andare. Ha chiuso lui il locale, incredibile. Sono arrivato lì, me lo sono trovato a sedere. Io dico, sì, chi lei è? Sei? Lei è? E dice, buongiorno, volevo mangiare. Dico, beh, va bene, provvederemo. Dice, che ci avete oggi? Dico, guardi un attimo, vi porto il menù. Per l'appunto poi stavo scaricando la legna. Sicché, cioè, nel senso... Non è che insomma andiamo a fare altro. Sottofondo c'è comunque vabbè, gli porto il menù e lui mi fa, no ma dimmelo tutto perché non voglio vedere a memoria. E io sì. Interrogazione se sbagli sono là che so, cioè fa conto, a me già mi sarà chiusa mezza vena, poco ha preso una pasta in bianco, no, poi io gli ho detto, dico, vai. Dice, no, qualcosa di pronto, di veloce. Riguardi noi si fa tutto espresso, tipo, non ci sa piatti pronti. Allora un caffè più espresso di quello, no, guarda. Fuori dal menù abbiamo qualcosa del giorno, ma comunque anche quello è espresso. Ah, va bene. Allora guarda il menù, sceglie, poi vabbè, mangia. 3 ore dopo. Mangia. E nel frattempo io gli chiudo la porta, la vetrata famosa, sì. E lui mi fa, ma che vuoi fare? Vuoi perdere il cliente? No. Ma come? Dice, no, no. Dico, ma scusi, ma... No, lasciala aperta, la voglio aperta. Dai, no, no, non dico, ci guardi, credo. Scusi, dico, chiudevo la porta perché mi si riempie la sala di mosconi. Beh, poi insomma, il ristorante è mio. Ma è mosconi, e poi fondamentalmente. E poi fondamentalmente. Fondamentalmente, non è che fuori c'è il paradiso terrestre, c'è un cavolo di piazzale di ghiaia. Cioè, voglio dire, che cavolo guardi? Il panorama, no, sicuramente. Comunque, vabbè, gliela lascio aperta. Insomma, per finire, ok, stringiamo. All'ultimo mi fa, dice, io gradirei un po' di frutta, magari delle fragole, ma tanto ce l'avete. Eh no, e lì lo freghi e gli porti un vassoio pieno di fragole. No, lì gli ho detto, dico, guardi, in realtà ce l'ho, ma a sto punto non gliele porto più. Ha fatto bene, proprio bene, gliel'ho fatto. Detto, benissimo. Gliel'ho detto. Fatto bene. No, certa gente davvero è allucinante. Davvero. Ma poi mi ha fatto, oh, ma io so più foglianese di te. Ma da dove vieni? Ma perché? Ma chi sei? Ma non t'ho mai visto. Comunque, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti. Perdonatemi lo sfogo. Allora, parliamo del 1968, precisamente dei Beatles. No, va. Allora, George Harrison leggeva Lai Ching e ne era così affascinato dal libro e dal suo concetto di base. In Oriente tutto è relativo al testo, mentre in Occidente tutto è coincidenza. Considerato da Confucio il libro della saggezza, George pensava che sarebbe stato bello mettere in pratica i suoi insegnamenti, così lontani da quelli che avevano condizionato la sua adolescenza. George era a casa sua dei suoi genitori e stava ripensando a quello che aveva imparato negli ultimi giorni. Pensava anche ad applicare l'I Ching all'arte di comporre le canzoni. Così prese un libro a caso dalla libreria dei suoi. Avrebbe scritto una canzone sulle prime parole in cui si sarebbe imbattuto. Gently weeps, piange dolcemente. Erano quelle. Una prima stesura di While My Guitar Gently Weeps fu scritta velocemente, ma George Harrison cambiò più volte il testo nel corso delle settimane successive. Quando pensò che fosse pronta, la sottopose al giudizio dei Beatles, ottenendo in cambio la risposta di sempre: disinteresse o poco più. Una prima versione acustica con Harrison alla chitarra e McCartney all'organo fu registrata, ma subito accantonata. La si può ascoltare in The Beatles Anthology 3. Il cambio di passo avvenne quando Harrison portò con sé in studio il suo grande amico di sempre, Eric Clapton. Grande amico prima che si innamorasse di sua moglie, fra l'altro. Amicone, eh? Mr. Slow Hand, mano lenta. Ne conosco un altro che fa questo modo. Boni, Manoletta. Boni. Boni, calmi. No, no, che ti ruba la moglie. Calmi. Non era molto felice, perché giustamente ripeteva che nessuno aveva mai suonato in un disco dei Beatles se non i Beatles, e che dunque il suo arrivo non sarebbe stato accettato da ovazioni, ma alla fine accettò per far piacere a George. Il suo ingresso calmò per un po' le acque, segnando una tregua delle molto turbolente registrazioni del White Album. Quando Clapton mise mano a While My Guitar Gently Weeps, anche Lennon e McCartney si convinsero che era davvero una grande canzone. E questi erano i Beatles con While My Guitar Gently Sweep. E adesso continuiamo. Ma se potrà di sweep? Io credo di sì, eh. Sì. Tutte le volte sempre mi interrompi. Ma non c'era che quella pubblicità che diceva la polvere non dura perché la caduta. Ora stai facendo. Ma dai, ma non dai, è quella. Ma non c'entra. È quella. Comunque parliamo del brano All Along the Watchtower, scritta da Bob Dylan dopo il famoso incidente in moto del 26 luglio del 1966, dove riportò la frattura di una vertebra cervicale che lo costrinse a rimanere in ospedale per mesi e dopo un lungo periodo trascorso a leggere la Bibbia, in particolare il libro di Isaia. Ed è proprio da quelle pagine che Dylan eredita l'immagine della Watchtower, cioè le torri di guardia. La versione originale di questo brano era molto semplice, con la chitarra a rispondere ai versi invece di accompagnare, compito invece svolto dal basso e dalla batteria, mentre l'armonica lascia l'aria e riempie i suoni. Jimi Hendrix stravolse questo brano rendendolo psichedelico, sostituendo l'armonica con la sua chitarra, chiaramente. Che strano. Eh sì, una grande... Direi che ha fatto bene, eh. Questo stravolgimento piacque così tanto a Dylan che da quel momento ha sempre suonato la sua canzone nella versione di Hendrix, in pratica chiudendo il cerchio visto che l'omaggiato restituisce l'omaggio. Ecco cosa significa prendere un capolavoro e realizzare un altro capolavoro, trasformandola in un'altra canzone. Inoltre, All Along the Watchtower è stata rifatta da molti grandi artisti come appunto Hendrix, ma anche U2, Neil Young, i Grateful Dead, Pearl Jam, Prince e tantissimi altri. Inoltre nel 2006 i Wolfmother hanno scalato le classifiche con il brano Joker and Thief, ispirato proprio ai due protagonisti della canzone. Bella curiosità. Comunque adesso Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Said a Joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. 0 Jimi Hendrix. 1 2 3 4 7 B. La denunciamo. Jimi Hendrix Along the Watchtower. Ora parliamo degli Steppenwolf. Magic Carpet Ride è una canzone rock scritta proprio dagli Steppenwolf. Il brano è stato inizialmente rilasciato nel 1968 nell'album The Second ed è stato il primo singolo estratto proprio da questo album. Nella classifica statunitense riuscì ad arrivare fino alla posizione numero 3, diventando così la seconda più grande hit della band, superata solamente da Born to be Wild. Curiosità: nel brano il testo "Mi piace sognare, proprio tra la mia macchina sonora" è ispirato ad un hi-fi stereo a casa di John Kay, acquistato con le prime royalties del loro primo album. Cioè, io se avessi soldi potrei scrivere una canzone su un termosifone. Esatto. Per quale motivo? Perché se loro l'hanno fatta su ispirato ad un hi-fi stereo di casa, io lo posso scrivere sul termosifone. Ma deve essere di Ghisa, però. Non vale. Quelli vecchi. Steppenwolf, Magic Carpet Ride. E questa era Magic Carpet Ride. E adesso parliamo di Build Me Up Buttercup. È il nome di una canzone scritta e pubblicata dai The Foundation con Colin Young come voce solista. È da dire che questo è stato il terzo colpo più importante per la band. Colin Young ha sostituito Glenn Curtis nel 1968 e questo è stato il primo album per i The Foundation, per cui lui ha cantato. Ha raggiunto il numero 2 della classifica del Regno Unito. Cosa? No, allora no, perché? Ah, lo vedi? Lo fa apposta. No, cioè, lo fa. Io non posso lo veramente fa fare così. Lui sta qui per dare noia a noi. Io davvero. Mi ha guardato, vabbè, continuiamo? Sì, andiamo sì, avanti, sì. Andiamo avanti. Comunque ha raggiunto il numero 2 nelle classifiche del Regno Unito e il numero 3 negli Stati Uniti nella Billboard Hot 100 nel febbraio del 1969, dove è rimasto per 11 settimane, che non è poco, insomma, via. Sì. Curiosità: nel 2003 Colin Young ha registrato una versione aggiornata della canzone sostenuta da un coro di poliziotti della polizia di Surrey. Il ricavato della vendita dei CD andò alla Fondazione Milley in memoria dell'assassinio a scuola della ragazza Amanda Dauer. Infatti, a quanto pare, questa era la canzone preferita appunto dalla ragazza. Comunque adesso i Foundation con Build Me Up Buttercup. Benissimo ragazzi, questi erano i Foundation con Build Me Up Buttercup. No, volevo precisare prima, quando il Pato si è messo a ridere è perché io lo guardavo. Perché voi dovete sapere che quando lui legge è bellissimo. Ah, a parte quello, è l'uomo più bello del mondo. A parte ad essere bellissimo, è chiaro. Però ogni tanto si gira verso di me come se parlasse con me, capito? Ma perché mi viene spontaneo? E io non lo guardo mai perché non volevo distrarlo. Oggi o l'ho guardato la prima volta in 7 puntate, l'ho guardato, si è messo a ridere. Sicché, ma perché mi hai guardato in un modo allucinante? Ma te l'ho detto, lo mi fa hai guardato apposta, come, di, come per dire: ma che cosa stai dicendo? Che cosa stai leggendo? Ma è la scaletta della settima puntata, quella per e sono esploso a ridere. Comunque, va bene. Andiamo avanti. Janis Joplin, Piece of My Heart. È un brano musicale scritto da Jerry Ragovoy e Bert Burns e pubblicato come singolo da Erma Franklin, sorella di Aretha Franklin, nel 1967. La canzone ottenne uno straordinario successo l'anno successivo, quando proprio Janis Joplin realizzò una fortunata cover in versione rock, grazie alla quale l'album Cheap Thrills, nel quale la canzone era contenuta, occupò per alcune settimane il primo posto nella classifica americana degli album più venduti dell'anno. Nel 2004 la versione di Janis Joplin venne classificata al 344esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, redatta dalla rivista Rolling Stone. Janis Joplin, Piece of My Heart. Era Janis Joplin con Piece of My Heart. Adesso parliamo di Iron Butterfly, le farfalle di ferro. La versione definitiva di In a God da Vida degli Iron Butterfly dura 17 minuti e 15 secondi e occupa tutto il lato B dell'omonimo album del 68. La versione live ne dura addirittura 19,51. Il singolo radiofonico poco meno di 3 minuti, per evidente. Pensavo 30 secondi. Poche parole dall'inizio alla fine, il resto è solo musica. Psichedelica, rock, forse anche heavy metal. In quel fantastico 68 sono per l'appunto Jimi Hendrix, gli Steppenwolf, i Blue Cheer e gli Iron Butterfly a edificare il nuovo genere con le loro progressioni violente. Il titolo del brano in sé per sé non ha alcun significato, è soltanto una storpiatura di In the Garden of Eden. Molte furono le ricostruzioni più o meno fantasiose su come avvenne tale storpiatura. La più accreditata, raccontata anche nelle note della ristampa dell'album del 1995, è che il cantante Dutch Ingle, giusto? Sì, giusto. Completamente ubriaco, o più verosimilmente sotto l'effetto di qualche droga, Ale. Rispose con la bocca impastata alla domanda del batterista Ron Bashi, che voleva conoscere solamente il titolo del brano. Ron capì, in agata da vita, e così scrisse anche sulla copia della demo che dette, insomma, alla casa discografica. Quando si accorse dell'errore, nessuno volle cambiarlo, un po' perché piaceva il suono e un po' perché ricordava quelle atmosfere mistiche e di orientale spiritualità di quegli anni, con i Beatles e gli Stones innamorati proprio dell'India. Che dell'India? Perché ho detto Linda? Linda. Chi è Linda? Boh, non lo so, la conosco. Valerio, chi è Linda? Non lo so. Più che atmosfere mistiche orientali di Jack Daniels e altra roba. Perché... In a God da Vida contiene inoltre un assolo di batteria di ben 2 minuti e mezzo. Altri tempi, davvero. Tecnico si distrae, esatto. Evviva! Si distrae tutti perché e due. Si distrae perché è frastornato dalla sconfitta. L'eterno secondo Mazzeo. Non a caso è dei nottambuli. Scherza, sempre secondo. Basta. Basta. No, ti non puoi parlare perché siete bombo. C'è il concorso. Proprio, guarda. C'è il concorso. Il concorso. Il concorso. Il concorso. Il cane, Lessi. Il cane, Lessi, è più bravo di te. Riferito al Bindi. Insomma, chi ha vinto? Io ci ho guardato. Voi ci avete guardato? Il passeggero. Vabbè, diciamo prima le canzoni in carica, di chi erano? Io me la ricordo mica mia. È strano, strano. Comunque, io avevo Crazy Train. Sì. Luca? Io avevo appunto The Passenger. Io avevo Angie dei Rolling Stones. Io Africa dei Toto. Istiria. Quindi, il quinto classificato? Credo quinto io. Classificato? Sì, sì, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, sì, sì, sì. Quanto classificato l'anno? Io mi stavo a pari merito col Bindo, sì. Secondo classificato, Eterno. Mirko, Eterno. No, secondo. Mirko Mazzeo. La prossima la vinco sicuro. A 13 voti. Rispetto a? A 21 voti di The Passenger, di Iggy Pop. No, scusate, ragazzi. Scusate. No. Io lo dichiaro. Allora abbiamo detto che ora, da ora in poi, chi vincerà il concorso offrirà la cena a tutti. Oh, sapete che vinco io sto cibo. No, fatemi finire. Io dichiaro. C'è un intro di chitarra che è epico. Che è pauroso. Fatemi finire. Io dichiaro che non vincerò più, visto che da ora. Va bene. Sono felice. È che lui la può. Niente. Cosa? Sempre il braccino, eh. Dai, ragazzi, mandiamo sta canzone su. Iggy Pop, The Passenger. stars are out tonight. La. Ragazzi, io la dichiaro, punto la tripletta, Sì, voglio sì. fare la tripletta, ve lo dico, Tre sei di diventato fine. Interista, sentirà. Come la Juve? No, sono derustici, è diverso. Okay. Tre di fine. Buono. Comunque, continuiamo e riprendiamo con la storia del rock. Parliamo delle vacanze estive del 1967, dove Paul Simon... Ah, pensavo le tue, pensavo. No, tra altre cose dobbiamo ancora decidere. Dove Paul Simon dice ad Art Garfunkel di essere stato contattato per comporre tre nuove canzoni per il film Il Laureato, che non ho mai visto, sono sincero. Comunque, vabbè, le prime immagini su cui devono lavorare sono quelle di Dustin Hoffman che nuota in piscina. Il risultato è scadente. Ebbene sì, il duo manca di ispirazione e di concentrazione. Anche l'altra volta, ti ricordi, quell'altra canzone, un flop, loro sono fatti così. Il tempo stringe e arriva il giorno in cui il regista dice a Simon che ha bisogno di un brano per la scena in cui Dustin Hoffman corre verso la chiesa per bloccare il matrimonio della sua amata Elaine. Chissà se uno di noi correrà mai in una chiesa per fermare un matrimonio. Il mio no, ma per qualcuno degli altri, per uno di voi tocca. Io correrò in chiesa per fermare quello del cecco, ve lo dico. Chissà se qualcuno... Lo salutiamo anche. Ciao Franci. Chissà se qualcuno di noi non riuscirà a non interrompere i Patrussi quando parla. Ma sì, anche. Vediamo, guarda. Scusa. Sarà più contento di vincere il contest. Scusa. Tranquillo. Fa parte del gioco. Comunque, interviene Garfunkel dicendo che Paul ha scritto un bellissimo abbozzo di brano per un altro progetto, il nome Mr. Roosevelt. Si sarebbe potuto tranquillamente trasformare in Mrs. Robinson. L'unico problema è che la canzone non era finita. Ebbene sì, anzi c'era solo il famoso ritornello senza le parole. Dopo averla ascoltata, il regista se ne innamora e vuole usarla lo stesso, senza sentire ragioni, anche se mancano le parole. Ecco perché nel film la canzone non ha testo. Le parole sono state aggiunte solo dopo, anche se tutti continuano a pensare che Mrs. Robinson faccia parte già della stesura definitiva del film Il Laureato, e invece no, è solo metà della canzone. Comunque adesso Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Son, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joked Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ragazzi, questa era Mrs. Robinson di Simon e Garfunkel. Adesso parliamo dei Rolling Stones, precisamente di Jumping Jack Flash. È una storia, come al solito le storie dei Rolling Stones sono sempre molto molto colorite. Che meraviglia la campagna, non si sente un rumore a parte gli uccellini e puoi dormire fino a tarda sera senza che nessuno venga a disturbare. L'ideale per una rockstar, l'ideale per due rockstar, Mick Jagger e Keith Richards. Sono a casa di Keith in campagna, dormono, anzi dormivano. Cos'è questo rumore? Chiede Mick. Keith fatica ad aprire, poi ha un'illuminazione. Jack Dyer, il giardiniere, stropiccia gli occhi, poi dice: oh, è Jack, Jumping Jack. Jumping Jack? Curiosa espressione, pensa Mick. I due si preparano, con calma ovviamente, come il Bindi. Sono due rockstar, il Bindi non lo è però. Arrivano in studio e il 1968 stanno lavorando a Beggar's Banquet. Gli altri sono già lì. Bill Wyman era arrivato prima di tutti, si era seduto al piano ed era venuto fuori un riff pazzesco. Brian Jones aveva aggiunto le chitarre e Charlie Watts la batteria. Quando Mick e Keith entrano, stanno suonando attorno a quel riff. I due pensano sia fantastico, l'ideale per impiantarci una canzone. Manca un testo. Impiantarci una canzone. Come vuoi dire? Trova un termine, dai, trova un termine. Ora. Trova un termine adesso. Farci una canzone. Fa schifo farci. Fa schifo farci. Impiantarci. In poche ore è pronto tutto. Jumping Jack Flash diventa un successo clamoroso. Tutti felici, meno Wyman. Il riff da cui tutto è nato. Anche il giardiniere. Giardiniere contentissimo. Praticamente era suo, ma la canzone esce a nome Jagger Richards, come tutte quelle dei Stones. Jumping Jack Flash. siamo? Ci siamo in diretta. Allora abbiamo finito la nostra storia del rock, la prima parte. Quante se ne fa? Tre, vero? Tre. Bene. Quindi tre parti. E quindi passiamo a una parte un pochino più... ma un pochino più recente, diciamo. Sì, quella, quella messa per pinare la scaletta, insomma. Esattamente. No. Ce la facciamo. C'è gente che fa del male ad altra gente senza motivo e io vorrei massacrarla, ma l'unica cosa che riesco a fare è urlare in un microfono. Kurt Cobain. Rape Me, letteralmente violentami o stuprami, è un brano tratto dall'ultimo album dei Nirvana, In Utero, uscito nel 1993. Il pezzo tratta appunto dello stupro, tema già affrontato con la canzone Polly del 1991, ma dal punto di vista opposto. Chi parla in Polly è lo stupratore, mentre in Rape Me a parlare è chi subisce la violenza. Cobain concepì come questo brano a favore della vita e contrario allo stupro. Infatti raccontò alla rivista Spin che era come se colei che subiva la violenza dicesse allo stupratore: violentami, va avanti, violentami, picchiami, non mi ucciderai mai, sopravviverò e sarò io a violentare te uno di questi giorni e tu nemmeno lo saprai. Si è fatto male il DJ Patrusi. Fermi. Si è rotto il palco. Il collo. Stava pogando su questa canzone. Niente. No, per ridere, bello che. Comunque, adesso un'altra citazione di Brian Molko, cantante dei Placebo, che dice: sono l'anti-Eminem. Io voglio bene alla mia mamma. Ma che bello! Adesso i Placebo. Che carino! I Placebo con The Bitter End. Benissimo, questa era The Bitter End dei Placebo. Adesso abbiamo una richiesta. Abbiamo una richiesta, abbiamo preso il via con tanto queste richieste. Sì. Abbiamo incrementato gli ascoltatori, di conseguenza adesso arrivano le richieste. Ci fa anche piacere. Certo, certo. Che abbiamo aumentato gli ascoltatori, dici te, lo dici. Ci fa... No, lo dice il padrone del server. Ah, lo dice il padrone del server. De Bolzano. Comunque, la dedichiamo ad Elena e Valentina ed è Stay, the U2. Ragazzi, ascoltatemi. Messaggio per i super muscoli che vivono in città. Per tutti quelli che hanno le orecchie aperte e sono pronti all'azione, mi è appena stata fatta una richiesta da parte dei Gramercy Riff. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello. Yeah. Tornati, bello. Benissimo, questa era la richiesta. Viene. La richiesta della nostra dedica ad Elena e Valentina. Un saluto. Sono allora, le 8 io... e 10, quindi. Sì. Volevo chiedere una cosa alla Giorgia che ci ascolta da Barcellona. Pensate, abbiamo ascoltatori da Barcellona. Incredibile, eh? Gli volevo chiedere se ci porta un regalino dal Peep Shop. Così perché sì. Un ricordo, un souvenir, capito? Una cosina un po'. Ma anche se ci porta niente, l'importante è che ci vada. Sì, infatti. Ci deve andare. Grazie, Giorgia. Grazie. Eh sì, ricordiamo. il tecnico fa come gli pare. Si diverte. Ciao, c'è la pagina, c'è il podcast, c'è. Ma che fate? È il tecnico, lo abbassa e alza quei istanti. Dai su, Patrusi, ricorda la pagina, ogni ricordiamo cosa. Ricordiamo come non tutte voi. Le settimane la pagina di Facebook col Time Rock and Roll Radio F Valdichiana. Ricordiamo anche i podcast, quindi se vi siete persi la puntata oppure la volete ascoltare. Domani metteremo sempre sulla pagina Facebook il podcast che potete appunto risentire. E ricordiamo sempre anche il concorso, quindi ogni settimana metteremo 5 canzoni che Mazza non vincerà mai. Che potete votare e la vincente andrà in onda. Posso andare ora? Tutto, possiamo andare. Alla tecnico prossima. Ci puoi andare.